quale la voce? Tale quale? Ma vittoria, vittoria! Ma non capite? No! Ah, che duccani! Si correte il notaio, messer notaio presto, via da vuoto donati c'è un gran peggioramento. Vuol fare testamento, portate il suo sguardo in letto da bene, questo messer resterà per tardi. Ed il notaio viene. Entra! Lo sponsor se mi oscura dentro il letto intravede di modo la figura. In effetto la calpe Lina al viso la petto Lina tra capellina e pezzolina un naso che par quello di vuoto e invece è il mio perché al posto di vuoto ci sono io. Io lo scritti con altre voce forma falsifico in me donati destande dandal testamento no. Contanti, in quarti e quali.